Siete sintonizzati su Radio Ernica. Buon ascolto. Radio Ernica FM 105 900 www.radioernica.com. Amiche e amici di Radio Ernica, benvenuti ancora una volta all'ascolto delle nostre trasmissioni. Bene, per la serie Incontri con l'autore abbiamo il piacere oggi di avere al telefono un nostro collega, Lorenzo Briotti, giovanissimo, classe 1974. Grazie, eccolo qua, è al telefono. Ciao Lorenzo, io ho sotto mano il tuo libro che lo citiamo immediatamente, si intitola Viva i pirati col punto esclamativo, la storia del radio pirata offshore. La prima cosa che mi viene in mente, la prima domanda, classe 1974, le radio offshore erano già finite da tempo. Come ti è venuta questa passione, questo interesse? Tu hai fatto anche una tesi in pratica su questo fenomeno. Nasce, vabbè, era una tesi ovviamente fatta quasi 30 anni fa. Beh, ovviamente molto diverso la tesi, però fu un argomento che per te, perché fece una laurea in sociologia, indirizzo di comunicazione e mass media. E la passione nasce innanzitutto dall'amore per la radio che ho sempre avuto, ma anche dalla musica, gente rock anni 60-70, per quello ero venuto a conoscenza delle radio pirata offshore, diciamo, per vie musicali, ecco. Quindi ho unito le passioni musica e radio e anche la possibilità. Tu sei anche un esperto di musica rock e in passato hai anche scritto su riviste del settore. Sì, anche se non troppo famose, però sì, insomma. E attualmente lavori con Radio Capital, se non ho letto male la tua biografia. Sì, e poi in realtà lavoro anche nel giornalismo online prevalentemente, con un sito che si chiama Blitz Quotidiano, non so se... Sì, lo conosciamo, l'abbiamo già visto qualche volta e lieti anche di poterlo pubblicizzare attraverso la nostra piccola emittente. Allora, un piccolo editore, Arcana, ti ha seguito su questa strada e ha pubblicato questo libro. E allora, Radio Pirata. Ci viene subito in mente Radio Caroline, che è quella più famosa, più conosciuta, anche al di fuori del mondo, diciamo, degli addetti ai lavori. Ma oltre a Radio Caroline ce ne sono state anche altre. Allora parliamo un po' di questo fenomeno. Innanzitutto, quello che si evince dal tuo libro è che non è un fenomeno, come si potrebbe pensare, così spontaneo, arruffone, bensì arriva da una realtà commerciale, quella americana, molto consolidata. Ecco, ci spieghi un attimo proprio l'inizio del fenomeno delle radio pirata. Allora, diciamo, innanzitutto c'è da dire che in Europa, fino all'avvento di queste radio pirata offshore vuol dire appunto fuori nel mare, insomma, no? Fuori bordo sarebbe, quindi erano delle navi montate, delle radio montate su delle navi ex pescherecci o anche navi proprio anche molto più grandi dei pescherecci, che si trovavano in acque internazionali e trasmettevano tutto quello che le radio di Stato non volevano trasmettere, quindi un po' la nuova musica, per intendersi, essendo primi anni 60, parliamo di tutto quello che sarà poi l'avvento dei Beatles, eccetera. Rode, Saxons sacked and started our history. This self-reliant, sprawling giant of a city came to be. London, London, that's my hometown. London, London, that's my hometown. For cordiality, hospitality, London sets the pace. People come here from far and near. Given them all a word. sono gli imprenditori delle radio nordamericani che hanno visto. Esatto, hanno visto che in Europa mancava completamente la radiofonia privata, salvo qualche eccezione che è quella la più famosa, Radio Lussemburgo, che è abbastanza nota come vicenda, e quindi hanno, diciamo, sfruttato questa mancanza, hanno preso questi pescherecci, li hanno messi in acque internazionali e hanno iniziato a fare la radio commerciale, diciamola così, assolutamente innovativa per l'epoca, con i jingle, con cose che le radio di Stato non trasmettevano, e molta pubblicità di prodotti americani, ma non solo, tabacco, automobili, e poi c'è anche un grandissimo ruolo delle case discografiche che comunque sfruttavano queste radio, insomma. Tu hai parlato di Radio Lussemburgo, che per me ha un fascino particolare, perché è proprio grazie all'ascolto di Radio Lussemburgo e poi anche di Radio Monte Carlo che io mi sono accostato per la prima volta al mondo della radio. Allora, perché è come, insomma, Lussemburgo un po' meno, ma vabbè, Monte Carlo trasmetteva comunque in Italia. No. Allora, Radio Monte Carlo aveva un trasmettitore in onde medie dal confine francese praticamente, quindi era attaccato all'Italia e si ascoltava in Italia tutto il giorno, H24, mentre Radio Lussemburgo ovviamente dovevi aspettare l'imbrunire la sera e arrivava con un segnale molto robusto anche qui in Italia, e lì si poteva ascoltare la musica che neanche la RAI trasmetteva con grande frequenza. Ecco perché noi giovani dell'epoca ci siamo accostati a questo fenomeno. Però ecco, raccontaci un po', ecco, visto che Radio Lussemburgo è stata un po' ha avuto un po' la primogenitura della radio commerciale in Europa, raccontaci un po', per sommi capi, la vicenda di Radio Lussemburgo. Radio Lussemburgo nasce come una radio pubblica, che però poi ha avuto subito, diciamo, un interesse, diciamo, i privati hanno comunque collaborato da subito al suo sviluppo, e la cosa interessante di Radio Lussemburgo è che, malgrado nasca nel Lussemburgo, ha avuto subito interesse a trasmettere in varie parti d'Europa, principalmente Gran Bretagna, quindi ha iniziato subito a fare una fortissima concorrenza alla BBC. Ha appunto aperto comunque canali europei, ha molto fatto concorrenza anche in Francia, perché anche la Francia, forse come saprai, no, c'era già Europa 1, Radio Andorra, insomma. Sì, Radio Europa 1, che formalmente era una radio tedesca, ma trasmetteva in francese, ha trasmesso in onde lunghe fino all'anno scorso. E quindi vabbè, adesso ha cessato le trasmissioni, mentre RTL, che è la nipote della vecchia Radio Lussemburgo, ancora trasmette in onde lunghe con un potentissimo trasmettitore, ascoltabilissimo anche qui in Italia. Radio Lussemburgo, tra l'altro, ogni sera fino agli primi anni 80 trasmetteva un programma in italiano prodotto dalla RAI per gli emigrati italiani nel centro Europa, quindi Germania, Francia, Lussemburgo e Paesi Bassi. Quindi c'era anche questo aspetto italofono di Radio Lussemburgo. For all that's worthwhile, your radio dial is on Radio Luxembourg. Radio Luxembourg, Great Britain. Very good afternoon to you from Barry Aldous. How are you? I hope all's well. Welcome to the show. Here we go again. Radio Luxembourg. Yeah, he's finished. Hey, that's good stuff, huh? Bit of solid gold for you now on the Barry Aldous show. A blast back to the past. The Doobie Doobie Doobies, the Doobie Brothers. Long train running. Yeah. piace molto notare appunto su Radio Lussemburgo è stata, oltre a essere una prima radio commerciale, è stata anche la prima che ha puntato veramente a trasmettere in vari paesi d'Europa, insomma, come se avesse visto, no? L'idea di trasmettere un po' in tutta Europa, insomma, no? Con i mezzi di allora, che però insomma è stato interessante, anche il fatto che avesse voluto fare, diciamo, una concorrenza alla BBC anche in Gran Bretagna, insomma, no? Quando le onde medie e le onde lunghe ancora erano gli unici metodi di ascolto a distanza della radio, aveva dei trasmettitori potentissimi, sì, che veramente si facevano ascoltare in tutta Europa. Certo, certo. E diciamo che nei radio pirata offshore le proprietà nella maggioranza dei casi erano italiane, anche se poi in realtà Radio Caroline, che è la più importante, in realtà poi la proprietà era tutta prevalentemente britannica. Per esempio l'altra invece molto famosa, che è Radio London, la famosa Big L, che aveva invece una proprietà totalmente americana. Quindi diciamo che le madri sono, diciamo, i genitori di queste radio sono appunto le radio americane come ispirazione e la maggioranza dei casi come proprietà, e appunto Radio Lussemburgo, insomma. Poi diciamo essere anche un po' ingiusti con la BBC, perché non è che l'idea è sempre che la BBC non trasmettesse proprio nulla, in realtà non è vero, anche la TV della BBC qualcosina faceva, ecco, però aveva sempre, no, quello spirito un po' pedagogico, no, tipico anche della Rai anni 60, molto anche un po' repressivo, nel senso alcune cose non potevano essere dette, non potevano essere trasmesse, invece queste radio avevano una certa libertà. Poi c'è stato il film, no, I Love Radio Rock del 2009, che l'ha un po' romanzata la vicenda, non so se... Sì, sì, quel film penso l'abbiamo visto un po' tutti noi appassionati di radio, sì, molto romanzato, bel film oltretutto, molto godibile. Qui in Italia non ha avuto un grande successo, a dire il vero, vabbè, ma per noi appassionati era bello. Io ho scoperto che molti, vabbè, magari perché io frequento ambienti magari che piace il cinema, però devo dire che insomma sono abbastanza visto tutti, insomma. E questa canzone è dedicata all'uomo capace di sedurre il mondo e che sta per mettere piede su questa barca. È lo stupendo Gavin Cavana e questa settimana è lui il numero uno. Essere il conte, così si dice. E questo che farebbe di me? Il re? Vuoi giullare? Sì, tanto piacere, caro. Bene. E tu sei? Felicity. Nuove regole? Sono lesbica. Forse? Sì. Sempre o a volte? No, proprio sempre. Quindi vedremo. No, fermo. Avanti, portatemi a un microfono. Ho bisogno di trasmettere. Ma come film? Non era. Beh, diciamo che al botteghino credo che abbia resistito un paio di giorni. Poi, ecco, io personalmente non ho fatto in tempo a vederla e poi ho comprato il DVD a suo tempo, e probabilmente come me avranno fatto tanti altri. Poi adesso periodicamente vedo che passa anche sul digitale terrestre, quindi diciamo una certa diffusione alla fine l'ha anche avuta. E tra l'altro il fondatore è morto quest'anno. Anche nel libro, perché mentre stavo scrivendo, vedendo, ho visto che era morto. È morto il 20 aprile, però. Bye. saprai meglio di me, lui ha fatto e ha continuato, nel senso che Radio Pirata è stata una vicenda fondamentalmente che si chiude nel 67, no? Sì, come Radio Pirata sì, ma lui ha continuato, poi insomma Radio Carolina ha avuto varie vicende, attualmente è una radio legale nel Regno Unito, sì. E trasmette sia in onde medie, trasmette in FM e anche ovviamente via web con la gemella Manx Radio, che ritrasmette spesso delle trasmissioni di Radio Caroline. E tra l'altro mi sembra che tu parli anche di Manx Radio nel tuo libro, che trasmette dall'isola di Man, che è una delle isole britanniche al nord, e che avendo uno statuto speciale, diciamo, ha avuto maggiore libertà come radiodiffusione. Infatti tra le legali fu la prima, diciamo, che venne lanciata anche con l'ok da parte della BBC, proprio un po' come un esperimento fu, no, il lancio di Radio Max, proprio perché l'isola di Mento avevano questa possibilità avendo uno statuto speciale, insomma. Addirittura quando chiusero le radio pirata offshore, questa radio fece una campagna a loro favore, quindi la BBC stava dicendo: ah, allora se siete a favore di loro quasi quasi vi ritiriamo la licenza. Sì, corsero anche questo rischio, ricordo la vicenda. This is Max Radio in Douglas. 232 and 188 meters medium wave, and our twin VHF services of 89 and 91.2 megacycles. Welcome to a brand new day. Eight minutes past 7 o'clock, that's the time. Good morning to you. That's a group called Design and a brand new song called The Jet Song on a Thursday morning, the 15th day of July. Let's hope things are going well with you. The weatherman predicts, in a word, dull. Occasional rain and occasional sunny periods today, but more rain than sun. Every week on Manx Radio, Auntie Louise and Uncle Bill bring you 30 fun-packed minutes of Kiddies Club, a special program for our younger listeners. And now, brought to you by courtesy of Playground, the exciting new store for all children. Youngsters will love Playground in Victoria Street, Douglas, on Boots Old Premises, holding a promise of the latest new toys and games, books and novelties, and a Manx Radio Kiddies Club corner where you'll be able to join Kiddies Club. E naturalmente anche poi sul continente ci furono altri imitatori delle radio offshore, per esempio in Olanda. Ecco, raccontaci un po' la vicenda olandese, che è molto peculiare. La vicenda olandese, ecco, diciamo che i due grandi paesi, allora, innanzitutto il fenomeno della pirateria offshore è tutta nord europea, perché si parla di mare del nord, eccetera, quindi fondamentalmente in Gran Bretagna, Olanda, Svezia, Danimarca e Belgio, fondamentalmente questi cinque paesi. E in Olanda ci furono Radio Veronica, che è stata forse la più importante, anche questa, insieme a Radio Caroline e Radio London, da cui poi viene anche un DJ che finirà in Italia, che è l'olandese Volante, che forse tu non so se hai avuto modo mai di conoscere. Sì, sì, me lo ricordo, come no. Attualmente a Radio Norba a Bari. Io ho avuto modo di intervistarlo per il libro, lo intervistai molti anni fa, ma poi l'ho ricontattato per il libro, e Radio Veronica fu una delle più importanti, anche più innovativa. Ci fu anche una guerra tra due radio pirata in Olanda, che era Radio North International e Radio Veronica, con addirittura un morto. En nu, opnieuw, elk uur, een onstuitbare portie Monster Hits. Een volle vrijdag lang. Radio Veronica op 3. Gegarandeerd op zijn minst. 55 muziekminuten per uur, elk uur. Veronica. Radio Veronica op 3. Veronica, rij aan rij, Monster Hits. Questa storia, come altre, ovviamente la potete trovare nel libro che vi invitiamo a leggere, perché veramente è appassionante, completo, veramente riesce a dare all'argomento veramente un tono sia professionale che divulgativo. Quindi vi invitiamo. Ricordo l'editore, che si chiama Arcana, viva i pirati, di Lorenzo Briotti. Ma sai che attualmente il fenomeno delle radio pirata, non con il fascino di quelle degli anni 60, continua soprattutto nel nord Europa. Ci sono, soprattutto in Olanda e in Belgio, ci sono dei signori che il fine settimana, non avendo nulla di meglio da fare evidentemente, attivano i loro trasmettitori e spesso rimandano in onda i jingle e le registrazioni degli anni 60. Quindi è un fenomeno che comunque, soprattutto in coloro che hanno una certa età, continua. Per esempio posso anche dirti, come anche questo conosce, sarai questa storia, innanzitutto il libro c'è un capitolo finale che tratta dell'Italia, perché ovviamente non si poteva non parlare un minimo dell'Italia, l'importanza, come detto tu, di Radio Monte Carlo, dei programmi della RAI, che comunque anche la RAI provò a fare qualcosa di innovativo nella radio, e vabbè, anche accenni a Radio Libere, parlando, perché comunque non volevo fare l'ennesimo libro sulle radio libere italiane, però ne ho parlato, insomma, nell'ultimo capitolo, e c'è questa storia, per esempio Radio Milano International, che fu tra le prime, no? Sì. Mentre è una cosa totalmente diversa, essendo ormai che è Radio 101, vabbè. Questa radio, durante la sua nascita, trasmise molti, cioè mi mandò in onda un sacco di jingle di Radio Lussemburgo e mi sembra forse anche di Radio London, proprio perché avevano, diciamo, l'ammirazione per questo tipo di radio, insomma. Radio Milan International, 101 Stereo. On 101 in full FM stereo, this is Radio Milan International. FM 101, non-stop music. It's Radio Milan International. Il jingle che oggi noi lo diamo per scontato, però è un grandissimo modo per identificare la radio, per creare, no, quella empatia col pubblico, no, che oggi è abbastanza scontata. Eh sì, hanno diciamo dato un nuovo corso veramente non solo al mondo della radio, ma al costume in generale, anche, esatto, e anche al modo di vivere dei giovani degli anni 60. Infatti, diciamo, è molto importante notare come siano le madri, insomma, i genitori delle radio commerciali, però allo stesso tempo hanno avuto ovviamente uno spirito molto libero. Essendo radio pirata, non potevano che essere, insomma, anche avere uno spirito libero, insomma, innovativo, in un certo senso. Abbiamo dato, diciamo, un'idea di quello che tratta questo tuo libro. Invitiamo naturalmente gli ascoltatori a procurarselo, si trova sui vari canali, ma naturalmente anche attraverso la casa editrice Arcana. Sì, anche nelle librerie, se volete aiutare qualche libreria locale lo potete ordinare, se non ce l'hanno, e Arcana comunque ha una buona distribuzione, insomma. Benissimo, allora Lorenzo, noi non possiamo che ringraziarti per la cortese intervista e ti auguriamo buon anno, visto che siamo proprio all'inizio di questo 2021. E non lo so, hai in mente già qualche altro prossimo lavoro sulle radio, magari dedicandolo all'Italia? Sì, no, varie idee, però ovviamente tutto un po' da lavorarci, insomma, questa era una cosa che mi ha appassionato molto e avevo tanto materiale, è una cosa proprio che da molto tempo, insomma, dato che è nato come tesi in parte, diciamo la ricerca storica in parte venne fatta per una tesi, avevo già da parecchio tempo materiale, però sì, ho varie idee, insomma, E allora ti aspettiamo al varco per la prossima opera letteraria, quindi Lorenzo Briotti ai microfoni di Radio Ernica con Francesco Cecconi, lo ringraziamo e ringraziamo anche coloro che hanno avuto la pazienza e la bontà di ascoltarci. Siete sintonizzati su Radio Ernica. Buon ascolto! Radio Ernica FM 105 900 www.radioernica.com.